lo so, ma vedendo ti ho provato le stesse emozioni. Ed anche se adesso non so dove sei, ti immagino già. I pensieri miei più dolci sono quelli che ho per te, che ho per te. Ed eccomi qui, coi resti di te, a provare a rimetterli insieme, per capire se c'è ancora un momento che possa convincere te. È bastato rallentare la mia corsa e trovo te, e trovo te. Più volte ho cercato questo amore, ma ogni volta non aveva il tuo sapore. Non c'era nulla di quella storia magica di cui spesso parlavamo. Di colpo mi sveglio, tralico per sogno, la notte mi incendia la mente. Il pensiero di te non spegne il ricordo, nell'aria c'è aria di te. Un vulcano eri sempre acceso su di me, su di me. A fissare, seduto a aspettare, ma non è che mi portino via. Prigioniero di questa dura realtà, mi ricorda che non sei più mia. Se ogni cosa ha il suo posto, trova il posto anche per me, anche per me. Più volte ho cercato questo amore, ogni volta non aveva il tuo sapore. Non c'era nulla di quella storia magica di cui spesso parlavamo.